24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Lisa Ferrarini, reggiana, la prima donna presidente degli imprenditori delle carni e dei salumi, vicepresidente di Confindustria con la delega per la tutela del Made In e la lotta alla contraffazione. Con i quattro fratelli gestisce il gruppo alimentare ereditato dal padre Lauro, che diceva: un uomo non può essere imprenditore se non ha in sé lo spirito dell'esploratore. Di lei amici e nemici dicono che non solo è esploratrice, ma una leonessa che su tutti i tavoli lotta per difendere il Made in Italy. Ecco, presidente Ferrarini, leonessa del Made in Italy, va bene come soprannome, le piace? Eh? Benissimo, fantastico. Combattente su tutti i tavoli, qual è il più difficile? Il tavolo è quello europeo, siamo in dirittura d'arrivo adesso, vedremo la settimana prossima. Noi parliamo. Il governo appunto aveva deciso di fare del semestre europeo il semestre del Made in Italy. Sta per finire, è così? È così, ma sono molto preoccupata. Ma Renzi cosa ha fatto? È partito un po' lentamente, speriamo sullo sprint finale. Speriamo lo sprint finale. Senta, presidente Ferrarini, l'ex ministro degli esteri Mogherini, secondo lei, e lo ha detto, come ministro per il Made in Italy non ha fatto nulla, conferma? Confermo. Ecco, adesso la Mogherini è a capo della diplomazia europea, si aspetta qualche passo avanti oppure... Ma guardi, io lo spero, anche perché difenderebbe tutta l'Europa, non solo il suo paese. Senta, di qui alla fine del semestre, che cosa si aspetta esattamente lei? Mi aspetto che si tiri in porta su questo ragionamento qui, anche perché è una tutela del consumatore, è una tutela delle imprese, della competitività. Ecco, il sottosegretario Lotti a Firenze qualche giorno fa ha detto: faremo il possibile. Ma è sufficiente fare il possibile adesso? No, adesso bisogna proprio portarlo a casa, non è fare il possibile, bisogna affrontare i tedeschi, bisogna affrontare tutti questi signori qua che dicono sempre sistematicamente di no e portarlo a casa. Non ci sono soluzioni. Cioè, coi tedeschi è durissima. Coi tedeschi non si possono contraddire, non ci si può mai rifiutare di dire di no, e invece bisogna cominciare a dire di no. Sono arroganti, molto. Un po' prepotentelli. Senta, intanto l'Italia con le sanzioni economiche alla Russia ha distrutto in parte le esportazioni agroalimentari. Sono da togliere subito queste sanzioni? Immediatamente, ieri andavano tolte. Ma per l'agroalimentare quanto significano in perdite? Quest'anno sarà oltre 1,5 miliardi. Per l'agroalimentare? Sì, assolutamente. Beh, poi senza calcolare tutto il resto, perché se mettiamo insieme il mondo del lusso, perché vogliono colpire essenzialmente il mondo del lusso, andare alla fine dell'anno arriveremo intorno ai 4 miliardi. Senta, ma come Confindustria avete chiesto al governo di agire in questo senso? No? Assolutamente sì. Non vi risponde nessuno? È tutto rimandato a questa magica Unione Europea, che bisogna che si scrogli un po'. Senta, Obama però al G20 ha detto che l'effetto delle sanzioni sono devastanti per la Russia. Siamo solo noi che paghiamo il prezzo per costruire questa devastazione per la Russia? Penso proprio di sì. Ma le sembra normale? Assolutamente no. Assolutamente no, proprio. Senta, presidente Ferrarini, intanto però con gli Stati Uniti è in corso la trattativa per l'accordo di libero scambio Europa-Stati Uniti. È importante? È importante, ma vede, ad esempio, per il Made In, anche questo fa parte di quel mondo lì. Cioè, noi non possiamo autorizzare l'ingresso di merci con il nuovo trattato senza avere l'obbligo dell'origine del prodotto. Certo, ma è perché infatti... Con gli Stati Uniti, dove c'è da molto tempo, no? L'etichettatura da sempre, obbligatoria. Da sempre. In Europa non c'è. In Cina c'è da sempre. Quindi noi siamo, guardi, ci sono tanti. Siamo Cenerentola. Ma no, ci sono tanti motivi per il quale dovremmo averlo. Uno tra tutti, ce l'hanno tutti. Noi siamo gli unici a livello mondiale a non averlo. Ma è possibile che nessuno abbia mai fatto per davvero questa battaglia? Ma guarda, è stata fatta anche in passato, è una quindicina di anni che per modo di dire, sì, però bisogna arrivarne fuori, basta. Bisogna che questi paesi nordici se la mettano via e incassino una sconfitta, una. Una. Senta, adesso la proposta del regolamento è bloccata al Parlamento europeo, sempre dai tedeschi e dai nordici? Sì, assolutamente. Adesso è al Consiglio. Al Consiglio di turno della Presidenza di turno. Beh, cioè la nostra. Tocca a noi. Noi la settimana prossima ci sarà il Consiglio Competitività il 4 di dicembre, dove da lì o se ne viene fuori o se ne viene fuori. Quindi il 5 dicembre lei è qua e valuteremo quello che è capitato. Perché o grandi applausi o grandi insulti, urla. Va bene. Senta, l'obbligo di indicare l'origine dei prodotti, però dove non è obbligatorio? Solo da noi? Assolutamente. Soltanto in Italia? Solo da noi. Allora, noi etichettiamo verso gli Stati Uniti perché gli Stati Uniti non ti sdoganano le merci. Noi etichettiamo verso la Cina. Beh, ma la Cina nel contempo non ha l'obbligo di etichettare verso l'Europa, così cosa vuol dire? Noi abbiamo, oltre tutti i costi aggiuntivi che abbiamo nelle produzioni del nostro manifatturiero, in più ci aggiungiamo anche questa ciliegina qua, che è un'etichettatura obbligatoria che noi abbiamo verso l'esportazione. Ecco, ma mi spiega perché i tedeschi si oppongono? Ma sa, loro negli anni hanno migrato un mare di manifatturiero e quindi probabilmente a loro... Cioè, questo, parliamoci chiaro, la loro manifattura si fa fuori, ma poi la etichettano tedesco. È la loro manifattura si fa fuori e cioè, si corre questo rischio, sì. Capita. Un pochino tanto? Un pochino, via. Vabbè, mamma mia, è diplomatica. Senta, quindi non ci sarà mai una casa comune dell'agroalimentare europeo, inutile che ci prendiamo in giro. No, bisogna che l'Europa cominci a diventare Europa a tutti gli effetti, perché altrimenti veramente ci pizzichiamo troppo. Ma i 125 milioni di euro stanziati per sostenere l'agroalimentare non bastano? No. Servono a niente? Ma no, piuttosto che niente, diceva quello là, meglio piuttosto. Sì. Però eravamo partiti da un piano di 220 milioni, poi sulla legge Sblocca Italia prima c'erano, poi dopo sono spariti sulla stabilità, poi dopo sono stati recuperati, poi adesso ci sono, finché non li vediamo abbiamo bisogno di vederli. Senta, Presidente Ferrari, suo padre, l'abbiamo detto, diceva: un uomo non può essere imprenditore se non ha lo spirito dell'esploratore. Lei ce l'ha? Sì. Quando ha capito di averlo? Sai, io ho un carattere, assomiglio molto a mio padre, il fatto della curiosità, il fatto di girare, il fatto di capire che fuori da casa c'è sempre qualcosa da imparare, comunque, certo. Sempre. Senta, è il momento in cui ha capito che proprio era il suo gol, quello quando è stato? Beh, appena ho iniziato a lavorare a 20 anni. A 20 anni? Sì, sì, sì. Senta, voi siete 5 fratelli, l'abbiamo detto nella presentazione. Sì, sì, come vi siete divisi i compiti? Tanti quanti maschi, quante femmine? 2 maschi e 3 femmine. E chi comanda? Ma non c'è quello che comanda. Beh, noi c'è ci siamo. Uno ma che noi, comanda. Beh, allora il vice babbo, via. Mio fratello più grande, Luca. Però noi ci siamo sempre. Noi più che fratelli siamo molto amici e collaboriamo molto tra di noi, per cui c'è uno spirito vero di squadra, molto molto forte. E le dirò che ce lo invidiano in tanti. Lo credo, perché io ho 7 fratelli, lo so come. Senta, ma non c'è nessun problema fra voi? No, mai. Trovato un equilibrio sempre, facile. Sempre. È la forza della nostra azienda. Certo. Senta, ho letto che nelle vostre aziende voi riuscite a innovare perfino un prodotto come il prosciutto cotto. Innovare il prosciutto cotto, come si fa? Ma sa, già sulla carne, la ricerca della carne in tutto il mondo, ormai ci siamo globalizzati, no? Quindi l'approvvigionamento della carne da tutto il mondo ti riserva tante bellissime sorprese. Ci sono dei paesi dove ci sono delle produzioni di carne meravigliose, e quindi no, già quello è ricerca per migliorare. Quanto conta la cottura? La cottura conta molto, ma le dirò che la materia prima è fondamentale. Beh, certo. Senta, e nel vostro settore... Lei è una buona bistecca, sì. Deve partire con una bella base. Sì, poi lei, se lei la sbruciacchia, è un disastro. Senta, ma nel vostro settore le sanzioni della Russia quanto valgono? Nel vostro settore? Nel settore nostro circa 100 milioni, perché è stata bloccata l'esportazione della carne fresca e surgelata di suino, quindi tutti i grassi, tutti i sottoprodotti e i prodotti... DOP essenzialmente. Senta, la produzione industriale a settembre ha fatto meno 2,9, vuol dire che il declino del nostro sistema è irreversibile? Guardi, spero di no, però il tredicesimo trimestre negativo mi mette un'ansia importante. Terribile. Ecco, Presidente Ferrarini, la disoccupazione è al 14%, però studi recenti dicono che in Italia ci sono 1.700.000 posti di lavoro che non trovano copertura. Che cosa non funziona nel rapporto tra domanda e offerta? Allora dico questo, la garanzia giovani, avanti, che doveva aiutare a risolvere questo problema, 1,5 miliardi dall'Europa, non funziona. Senta qui invece questo ragazzo, Andrea Despirt, un ragazzo di 27 anni che si è inventato Job Your Life. Job Your Life conta 250.000 utenti in crescita e abbiamo circa 300 aziende iscritte al sito. L'idea è venuta da una problematica, cioè io volevo fare un altro sito, però io non sono un programmatore e quindi mi servivano dei programmatori, ma mi era praticamente impossibile trovarli nel web, era molto molto difficile con i classici annunci, e quindi ho detto: ma è possibile che non esista una piattaforma che mi geolocalizza le competenze che mi servono dove mi servono? E da lì è nato l'embrione dell'idea. Permette alle persone di trovare il loro lavoro ideale dove desiderano, nel senso che le aziende hanno la possibilità di entrare in un sistema avanzato di ricerca che gli permette di trovare i candidati nella zona geografica in cui li cercano, un po' come avere dei curricula sopra Google Maps, e a loro inviare un annuncio mirato. Il potere sta un po' al candidato, se lo accetta va direttamente in contatto con l'azienda per un colloquio. Noi abbiamo invertito quello che è il processo classico per la ricerca di lavoro online, che detta molto velocemente funziona così, è sempre stato così: l'utente va online, va sui vari siti di job posting, cioè dove si trovano annunci di lavoro, guarda i vari annunci, si candida. Queste due grosse problematiche: la prima, che i candidati ricevono pochissime risposte da parte dell'azienda; dall'altra parte ci sono le aziende che ricevono migliaia di curricula non adatti magari a quello che loro stanno cercando, perché non c'è alcun tipo di filtro. Noi abbiamo invertito il processo, non sono più i candidati a dover cercare gli annunci, ma sono direttamente le aziende a mandare loro annunci mirati. Beh, una strada, no? Fantastica. Le ricordo che in Italia ancora la banda larga non c'è dappertutto e che ancora sulla ricerca e sull'innovazione siamo ancora un po' scadenti. Però Confindustria potrebbe utilizzare strumenti assolutamente, come questo, perché assolutamente le strutture intermedie come sindacati e Confindustria sono un po' lente, mi sembra, a fare questo lavoro, no? Recepito il messaggio. Senta, Presidente Ferrarini, adesso la battaglia per lo sviluppo passa dal cambio delle regole in Europa. È lì che si gioca la partita. Ce la farà Renzi? Ma assolutamente bisogna. Bisogna stralciare questo. Abbiamo un obbligo: stralciare il dogma dell'austerità, e dobbiamo assolutamente pensare che il manifatturiero deve, e per fortuna, tornare al centro di ogni ragionamento. Noi non possiamo più pensare alla finanza giurassica, ai servizi, a tutto quello che era, che è stato devastante. Manifattura. Ecco. Deve essere alla base di ogni discussione in agenda, sempre, ogni giorno. Ecco, ma l'euro è ancora un totem intoccabile? Io direi di sì, assolutamente. Cioè, perderemmo valore di tutte le nostre imprese e sarebbe un po' violento. Ecco, credo. Presidente Ferrarini, ma dopo il lusso, adesso i fondi dei grandi investitori sono a caccia dell'Italian food, del mangiare italiano. Sì. È così? Sì. Ecco, però dietro i giganti Barilla e Ferrero ci sono solo piccole e medie imprese che rischiano di essere divorate, è vero? Ma guardi, il tessuto economico italiano, soprattutto nell'agroalimentare, sono tutte PMI, guardi, tolto veramente, come dice lei, giganti. Ci sono delle belle aziende comunque, anche perché se lei pensa come è fatta l'Italia, abbiamo queste distrette alimentari che vanno da nord a sud, l'Italia questa lisca di pesa lunga e stretta, e che ha delle eccellenze che sono dure. Quindi non rischiamo di essere divorati? No, sicuramente. Il fondo che si avvicina ti lusinga. Senta, ma mi dice il nome di tre grandi imprese italiane nate e cresciute negli ultimi 10 anni? C'è la domanda di riserva? Ah, no, va bene, ok. Non mi metto. Senta, le faccio un'ultima domanda allora. Presidente, suo padre diceva: ci si deve impegnare per risolvere i problemi prima di addormentarsi. Poi si dormirà meglio. Ecco, per dormire meglio, qual è il primo problema che vorrebbe risolvere? Ce ne sarebbero tanti, perché la tensione che c'è, si vive in questi giorni nel nostro paese e nel mondo, le guerre nel terzo millennio mi creano un po' di ansia, francamente, problemi geopolitici, insomma, credo che l'intelligenza dovrebbe farla da leone, ma purtroppo non è così. E per quanto mi riguarda, sì, io ho un nodo da sciogliere immediato, che è il 5 e il 4 dicembre. 4 dicembre, se il presidente del Consiglio non mi porta a casa impacchettato il made in, io e lei il 5 di dicembre ci vediamo e qui viene fuori mondiale. Un casino mondiale. Va bene, allora sarà sicuro. Senta, ma si voterà in primavera secondo lei? Certamente. Certamente. Certamente. Mix 24. Allora Mario, il titolo di questo faccia a faccia con questa donna veramente forte? Mi ha affascinato tutta la vostra disquisizione sul prosciutto. E il titolo? Non è crudo, è molto cotto. E tu Pietrangelo? Allora, posso farne due? Due. Uno, sempre esatto. Arrivederci al 5, vedremo i cammelli. Vedremo i cammelli, carino. E l'altro invece farei, è molto suggestiva l'immagine, è lavorare e esplorare. Bello, bello. Se potessi, amore mio, ti darei tutto quel che vedo, ma posso darti solo quel. Allora, Pietrangelo? E cosa non fanno le reminiscenze di liceo oggi in metropolitana? Un padre e un figlio alle prese con Aristotele, potenza e atto. Il padre spiega e il figlio invece è distratto e rapito da una smorfia di baci e da una cascata di capelli biondi. E siccome si trova sempre il tempo per il cuore, il padre ne approfitta per spiegare la potenza di quel che si è nell'atto della smorfia. Con una smorfia che diventa poi, tra potenza e atto, sorriso. E il padre spiega al figlio il modo tutto aristotelico di saperla amare, quella smorfia, come si ama una regina. Ed essendo quel che si è in potenza, diventando quel che si è in atto, quel padre cede il passo e insegna al figlio il modo di amare una donna per farla diventare regina. Sono quel che sono, se potessi, amore. Bene, la giornata di oggi, perfetta questa dedica della canzone, Mario. Tu non ci avresti mai. A fare cosa? A fare una dedica così. Così dolce, no, no, così sì, dolce no. No. È Aristotele. No, ma, sì, ma che c'entra Aristotele? Cioè, tu sei sempre dolce, io non ce la faccio. Non ce la faccio, sei cattivo. Senti, sì, sentiamo le tue bolle, va, torniamo alla realtà. Ecco. Questo è Close to Me, dei Cure. Insomma, Close to Me, vicino a me, vicino a te, vicino a loro. Chi sta vicino a Obama nell'ultimo periodo non è che stia mamma bene, mia, si brucia. Si brucia parecchio. D'altronde. Ed era un suo amico, eh? Chuck Hagel, sì, il ministro della difesa, segretario della difesa, si dice negli Stati Uniti. Insomma, è andato giù, proprio si è dimesso, anzi, lo hanno dimesso. Cacciato. Vabbè, le ragioni sono abbastanza evidenti. La politica della difesa americana in questo momento è in grande difficoltà, dilemma mai risolto in Siria, aggravato con la guerra irachena e la nascita di ISIS, no? Il gruppo dei terroristi, dei tagliatori di teste. Però non solo quello, c'è anche tutto lo stallo strategico in Ucraina. È vero che lì, insomma, più la CIA che in realtà il Pentagono. Vabbè, sempre americani sono. Sempre quelli alla fine sono. Al di là dei nomi che si fanno. una donna, la Fleurie e altri, e così via. La realtà è che è Obama il commander in chief, forse è il caso di ricordarlo, per la Costituzione americana è lui in questo momento il capo. Il capo, quello che comanda, perché ci sono guerre in corso. In Afghanistan ha appena segnato un executive order per continuare di fatto l'impegno militare sul teatro di guerra. E si attende una svolta in Iraq, che per ora non c'è. Ricordiamo che tra due anni si vota, si giocano il posto alla Casa Bianca e democratici, e anche questo conterà, secondo me, certo, parecchio. Secondo me ci sarà una sorpresa nelle prossime settimane nella strategia di Obama per quanto riguarda queste guerre che non sono mai... Vabbè, ne parleremo. Intanto Salamino! E contura Sicilia, con l'autonomia. Costa 420.000 euro all'anno, ma incassa solo 20.000 euro. Chiude dunque il Museo Renato Guttuso a Bagheria. Chiude avendo però in programma per il 31 gennaio prossimo una mostra di ritratti e autoritratti di Guttuso. È la storia dunque di un museo con pochi visitatori e troppi custodi. Ma su Panorama invece leggo un reportage di Carmelo Caruso, delizioso, proprio perché svela ancora una volta questo groviglio buttanissimo. Ed è la storia di un museo di Sicilia affollato più di una casa popolare occupata. 66 funzionari hanno occupato la casa museo di Luigi Pirandello. Zero visitatori, e però ci sono sei gatti che nella contrada Caos ad Agrigento tengono compagnia allo scrittore, come è scritto, utilizzato come un ammortizzatore sociale da una milizia di stipendiati. Ora, tutto questo per dire che 66 dentro la casa museo di Luigi Pirandello. Sapete quanti sono i custodi della casa di Manzoni a Milano? Sono due. Arrecanati, Mario? Non lo so. Uno. Ti riferisce al Leopardi. Uno. L'unico a superare questa cifra sono gli Uffizi a Firenze, 186. Vabbè. Però vabbè, una superficie di metri quadrati di 12.680. E qualche milione di visitatori. Bottanissima. Certo, il Pirandello, te lo immagini? Pirandello si rivolta nella tomba, secondo me. Tutta c'è questa... pure una telecamera fissa a controllare l'urna cineraria. Ma ti rendi conto? Senti, e i droni come stanno, Mario? Grande cosa, grande cosa. Come dice il ritornello, Spirit in the Sky è anche nella colonna sonora di Apollo 13, che io consiglio sempre di rivedere. Allora, i droni sono la nostra contemporaneità, è una cosa che la politica tanto quanto si accorge di tutto quando le cose sono già successe, solitamente. Però gli educatori, secondo me, dovrebbero, e i cosiddetti intellettuali, ammesso che esistano, forse dovrebbero guardare un po' questa rivoluzione, perché ha cambiato la percezione che abbiamo del mondo e sta cambiando molto anche l'immaginario, persino, no Giovanni, la produzione, certo, di cinema, di televisione e così via. Quindi i droni sono una cosa molto importante, oltre ad essere un'industria emergente che promette utili e ricavi interessanti. E poi c'è la drone generation, cioè i ragazzi, i giovani che li progettano, li costruiscono e li fanno volare. Nessuno ha pensato che hanno bisogno di spazi aerei, di scuole, cioè che tutto deve cambiare in questo senso, però c'era una notizia interessante che segnalo. In Ohio un college ha costruito un hangar vero e proprio per far esercitare i propri allievi con i droni. Interessante. Sì, è molto interessante. Ed è, guardate, ci sono una serie di pubblicazioni, scuole, college che stanno costruendo questo tipo di industria. Informazione. E c'è un movimento molto grande anche in Italia. Ecco, a proposito di cose nuove, molti ascoltatori ci chiedono di ridare il sito quel sito che cerca il lavoro, mette in contatto aziende e ragazzi che cercano lavoro, www.jobyourlife.com. Ricordatelo, www.jobyourlife.com. jobyourlife.com. Sara, a quota rosa? 1, 2, 3, 4, tell me that you love me more. Sleepless, long nights, that's what my youth was for. Oh, teenage hopes are right at your door. Left you with nothing, but they want some more. Oh, you're changing your heart. Immagino che tutti saprete che oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Giusto? Certo. Bravi. Ecco, io credo un po' poco a queste giornate, diciamo, a tema, così come la festa della donna. Mi sanno un po' di limite, di gabbia. Però fatto sta che da gennaio ad oggi sono state uccise 85 donne dal partner o dall'ex, quindi diciamo non da sconosciuti. E così oggi ho fatto il fioretto e ho deciso che seguirò l'iter dei 17 milioni di euro che dovrebbero finanziare i 188 centri antiviolenza e le 164 case rifugio, che spesso sono l'unica soluzione di salvare la vita a queste donne che hanno avuto la sfortuna di incontrare non degli amori ma degli psicopatici. Questi centri, ovviamente, come spesso accade, lavorano senza risorse, ma così tanto senza risorse, che per esempio un centro pugliese, quello di Renata Fonte, ha addirittura dovuto scioperare, nel senso che le lavoratrici, le volontarie hanno fatto lo sciopero della fame per far capire che così non potevano più aiutare nessuna donna in difficoltà. Allora mi rivolgo alla nostra amica Laura Boldrini, a tutte le Lady Lai, che tiro fuori perfino la Bindi, che dovrebbe essere contenta di tornare in causa, e vi dico: datevi da fare invece di celebrare occasioni un po' retoriche. Ah, vabbè, la lezioncina di Sara. Sentiamo questo salamino. Olimpiadi a Roma. Pierluigi Battista ha lanciato il fantaprogramma delle Olimpiadi a Roma. La capitale è per l'appunto più bella e più superba che pria. Più bella e più superba che pria, dice Petrolini, ed è pronta per essere sede delle Olimpiadi del 2024. Fiato alle trombe! Allora, Roma si prepara a sostituire le gare di pentathlon con 5 linee di metropolitana. Fiato alle trombe! Invece del decathlon, altre 10 linee di metropolitana. Fiato alle trombe! Lo svolgimento delle gare di golf nel green del manto stradale di Roma, coprendo tutte le buche. Fiato alle trombe! Abbiamo dato fiato alle trombe e adesso largo alle pernacchie. Prego, no, Manu. Solo posso chiedere al mastro Buttafuoco l'introduzione di una nuova disciplina. Il salto in basso, per favore. Salto in basso ancora, fiato alle trombe. Oh, adesso sono soddisfatto, grazie. Sempre più giù, mi raccomando. Sempre più giù, vabbè, tiraci su con la tua bolla finale. Ah, questo è divertente, senti, senti. No, allora, questo era Dancing in More, un hit del momento. Ci siamo divertiti un po' a spaiare con la nostra colonna sonora musicale. E Pietrangelo, ma tu lo sai che stampare denaro non è che fa guadagnare poi così tanto? Sembra un paradosso, no? Come tu vai là, c'era Ciulla che stampava denaro falso, e quello è falso. Io dico, stampare denaro vero diventa un business abbastanza a rischio, perché De La Rue, che è uno dei più grandi stampatori di banconote del mondo e il re della sterlina per intenderci, ha un po' di problemi con i profitti. Le commesse stanno diminuendo, la concorrenza degli stampatori di Stato si fa sentire, perché poi fanno le gare ovviamente le banche centrali, e diminuisce naturalmente la diffusione di banconote in favore della moneta elettronica. Sono tempi duri anche per chi stampa denaro. Mamma mia, terribile proprio. Tempi duri per tutti. E allora sentiamo oggi il nostro canzoniere Pietrangelo. Non so se tra rocce il tuo pallido viso m'apparve o sorriso di lontananze ignote fosti. La china eburnea, fronte fulgente o giovine, suora della Gioconda o delle primavere spente, per i tuoi mitici pallori, o regina adolescente. Carmelo bene di sicuro. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666. Le sms devono dire cosa recitava. È facilissimo. Va bene, intanto in attesa di sapere, di avere delle risposte, oggi con Marina Milone raccontiamo la storia di Lee Oswald, chi era davvero l'uomo che uccise il presidente Kennedy, un personaggio, una storia particolare che raccontiamo subito dopo il giornale radio, in chiusura un'intervista di Marina Milone a Yash Gavronsky. Ma intanto qualcuno ha risposto. Alessandra da Piacenza. Alessandra, pronto? Pronto? Sì, ecco. Allora? La chimera di Dino Campana. Giusto! Ventrinelli! Alessandra, che cosa fa a Piacenza lei? La casalinga, come dice mio marito, l'amministratore delegato di casa. Beh, però non male. C'ha figli? Sì, due, ma grandi. Due grandi, vabbè, e sente sempre Mix 24, una curiosità piccola? Sempre, tutti i giorni. Che piacere. Bene, grazie. Allora, un Petrinelli per lei. E per chiudere, vuoi una notizia? Dimela, sì. Senti. No, perché c'è una notizia, abbiamo parlato del Pentagono, potevo secondo te non occuparmi della marina militare russa. È stato appena consegnato a Mosca il Vladimir Monomakh, che è un piccolo sottomarino nucleare armato di missili intercontinentali a testata atomica multipla, classe Borei. Sono i più moderni in dotazione alle forze russe. E segnalo per la pace, come suol dirsi in questo caso. www.joborlife.com, lo ricordo, è il nome del sito. E per chiudere, la canzone Bella senza anima di Cocciante. Povero diavolo, la storia. Quella che raccontiamo oggi a Mix 24 è la storia di Lee Oswald. Di lui si sa poco, quel poco che sappiamo è ancora un enigma. Insomma, chi era davvero Lee Harvey Oswald? Un ex marine di 24 anni vissuto in Russia? Lee Oswald, l'uomo che ha sparato a Kennedy, è stato davvero un cecchino solitario, come sostiene la commissione d'inchiesta Warren sull'omicidio Kennedy, o è stata la pedina di una cospirazione, come ha sostenuto Oliver Stone nel film JFK? Oppure, come ha detto lui stesso, è stato soltanto una vittima? Questa è la storia dell'enigma Oswald. Lee Harvey Oswald nasce il 18 ottobre 1939 a New Orleans. Sua madre si chiama Margaret, suo padre Robert. Il padre muore improvvisamente di infarto 2 mesi prima della sua nascita. Margaret rimane da sola ad occuparsi di Lee e dei suoi 2 fratelli maggiori, il fratellastro John e Robert. Margaret manda i figli maggiori in un orfanotrofio e poi in un collegio. Lee resta a casa con la madre. Non so che età avesse quando la mamma gli disse esplicitamente che era un peso per lei. Certamente a 3 anni già sentiva di essere di troppo. A 12 anni Oswald si trasferisce con la madre a New York. I due vivono in un piccolo appartamento del Bronx. Durante il giorno, mentre Margaret lavora in un negozio di abbigliamento, lì resta sempre solo. Il giovane Oswald pensa di avere di meglio da fare che andare a scuola. Passa le giornate alla biblioteca pubblica o nei musei e studia per ore la rete della metropolitana di New York. Negli stessi anni alcuni eventi storici lasciano un segno indelebile nella mente di Oswald. È il 1953. Julius ed Ethel Rosenberg sono accusati di essere spie assoldate dai russi e condannati a morte. Cercavo una chiave che mi introducesse in un mio universo. È allora che ho scoperto la letteratura socialista. Ho dovuto scavare negli scaffali più nascosti e polverosi delle biblioteche per trovare i libri che volevo. Oswald finisce per iscriversi alla Civil Air Patrol, un corpo ausiliario giovanile dell'aviazione militare. Vuole entrare nei Marines e mente sulla sua età, ma viene respinto. Dunque un ragazzo solitario, cresciuto senza un padre, un adolescente introverso, emotivamente bloccato. È il 18 ottobre del 56, Oswald compie 17 anni e finalmente può entrare nei Marines, dove diventa tiratore scelto con fucili di precisione e sempre nei Marines Oswald viene addestrato come osservatore radar. La sua prima base americana è in Giappone, ma anche il servizio militare per Oswald si rivela un'esperienza difficile, frustrante. Si ferisce accidentalmente con una pistola di ordinanza, viene processato e condannato al carcere militare. Ce ne parla il giornalista Gerald Posner. La prigione lo cambia profondamente. È un'esperienza dura. Ne esce molto incattivito. Stiamo parlando di un uomo autorizzato a operare in settori protetti, che poteva accedere ad apparecchiature molto sofisticate. Improvvisamente questa persona manifesta apertamente il suo interesse per il marxismo. Con il senno di poi, come si legge nel rapporto Warren, tutto questo ci dice che non siamo stati efficienti come avremmo dovuto, che spesso siamo stati più poliziotti distratti che guardiani inflessibili, che non abbiamo agito come avremmo dovuto, perché non abbiamo indagato a fondo su uno come Oswald. Un errore quell'indagine non fatta secondo Robert Blakey, della Commissione sugli omicidi negli Stati Uniti nel 1979. Soprattutto perché oggi sappiamo che quella base americana in Giappone nella quale era Oswald non era una base aerea qualunque, ma si trattava di una base della CIA, da cui partivano le missioni degli aerei U-2 che sorvolavano il territorio dell'Unione Sovietica per fotografarlo. Allora, com'è possibile che un governo americano abbia mandato un convinto marxista dichiarato come Oswald in una base così strategica? È il primo dei tanti misteri dell'enigma Oswald. Siamo nel 1959. Oswald chiede il congedo anticipato dai Marines, si iscrive a un college in Svizzera e richiede il passaporto. In realtà Oswald in Svizzera non arriverà mai. La sua destinazione è un'altra. Mosca. Il viaggio per Mosca è molto tortuoso. Oswald parte per l'Europa da New Orleans, si sposta rapidamente dalla Francia all'Inghilterra e poi in Finlandia. Helsinki è una delle poche città al mondo dove un americano possa ottenere un visto d'ingresso per l'Unione Sovietica senza grossi problemi. Da lì Oswald prende un treno per Mosca. Come ha fatto Oswald a procurarsi i soldi per tutti questi spostamenti? In seguito Oswald dirà di aver risparmiato $1,000 sotto le armi, eppure sul suo conto in banca ne risultano solo 200. Come tutti i turisti stranieri, a Mosca Oswald è affidato ad una guida personale dell'Intourist, Rimma Shirokova. Oswald non sembra interessato alle bellezze della città. Il secondo giorno confida a Rimma il vero motivo del suo viaggio. Vuole chiedere asilo politico. Ne fui sconvolta. Gli chiesi quali fossero le sue motivazioni, le sue ragioni, e lui mi rispose che era per le sue idee politiche. Era un comunista e non approvava il sistema sociale americano. Rimma fa da tramite con il KGB, che esamina la richiesta di Oswald. Il caso Oswald viene gestito da Vladimir Semichastny, oggi un ex agente del KGB. Quando Oswald cominciò a chiederci con insistenza asilo politico, la nostra prima reazione fu di rifiuto totale. Volevamo espellerlo dall'Unione Sovietica, altro che asilo politico. Così, in seguito, Oswald avrebbe ricordato la sua reazione di quel giorno. Dovevo lasciare il paese entro quella sera alle 8, alla scadenza del visto turistico. Ero sconvolto. Tutti i miei sogni. Mi chiusi in una stanza. Oswald dunque sta per essere espulso dall'Unione Sovietica. È il 1960.